Letture di Radio 24. Se utilizzati in modo corretto, i social network possono essere un importante strumento di business, con un valore commerciale quantificato attorno ai 1.300 miliardi. Ma utilizzati in modo sbagliato, possono finire per ritorcersi contro le stesse aziende e i passi falsi si pagano cari. Due cuochi girano un video per scherzo e sempre per scherzo lo diffondono in rete. Il video scala le classifiche di YouTube e dopo aver visto cosa succede davvero nella cucina di un ristorante della catena Domino's Pizza, i clienti lo disertano e le vendite calano. I passi falsi sui social network non vanno presi alla leggera. I numeri lo confermano. 1,5 miliardi di persone ha un account sui social e un terzo dei consumi, sia online che offline, è influenzato dal social shopping. Le aziende italiane che investono più del 2% del proprio fatturato sul web lo vedono aumentare del 5,9% su base annua, contro lo 0,3% delle altre. Se si utilizzano nel modo giusto, i social network possono sbloccare un vero tesoro. Una cifra compresa tra i 900 e i 1.300 miliardi di dollari, secondo lo studio del McKinsey Global Institute sui settori del largo consumo, finanza retail, servizi professionali e manifatturiero avanzato. Se si maneggiano nel modo sbagliato, possono ritorcersi contro le aziende stesse. Si va dall'indebolimento del brand alle perdite economiche. L'errore più comune delle aziende italiane? Pensare che sui social basti esserci, invece bisogna investirci davvero, con risorse e persone, analizza Marco Mazzù, partner di McKinsey, specializzato sulle tematiche relative alle social technologies. Secondo uno studio Yulm su dati 2010 e 2011, la percentuale di aziende italiane che utilizza almeno un social media per le attività di comunicazione e marketing in un anno è passata dal 32,5% al 49,9%. Le più entusiaste sono le piccole e medie imprese. Il canale più popolare è Facebook, seguito da Twitter, LinkedIn e YouTube. Ma una pagina su Facebook con tanti fan serve a poco se i contenuti non vengono commentati o condivisi e non vanno scelti a caso. Bisogna capire cosa interessa ai consumatori per stimolarli e farli interagire, dicono gli esperti. Le interazioni devono essere semplici e veloci. Un catalogo online difficile da sfogliare, un acquisto troppo lungo da perfezionare, un link che non si trova. Un altro errore delle aziende è mantenere l'online separato dall'offline. Un peccato. Il valore dell'e-commerce rappresenta lo 0,9% del PIL italiano ed è in veloce aumento. Lo shopping si fa a cavallo tra web e negozi reali. C'è chi esamina i prodotti negli store e poi li acquista online, chi scopre i prodotti su internet e preferisce comprarli sotto casa. Per questo l'offerta in rete va integrata con quella nel mondo reale, sottolinea Mazzù. Sbagliato anche puntare solo sui social network. Preferisco parlare di social networking, la capacità delle aziende di creare community online, per esempio attraverso le app, che spesso anche grandi aziende italiane non utilizzano, una risorsa in più, a patto che siano veloci e ricche di contenuti. Meglio controllarli bene, questi contenuti, ma che fare quando online finiscono quelli sbagliati? Cercare di fermare il passaparola può essere controproducente. È più utile scusarsi e aspettare che la bufera passi, conclude Mazzù. Lo hanno fatto anche i dirigenti di Domino's Pizza, ma le vendite del ristorante poi sono calate lo stesso. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Greta Sklaunic, Aziende, quanto costa un passo falso sui social, dal Corriere Economia del 17 settembre. Diffondere la cultura anche in luoghi insoliti è una pratica ormai consolidata. E negozi che offrono uno spazio dedicato ai libri e alla lettura si possono trovare ormai in ogni angolo del mondo. Ma in un paese come il Brasile, dove nonostante i progressi degli ultimi anni, il tasso di analfabetismo resta ancora molto elevato, è necessario spingersi oltre. E così nasce T-Bone, l'unico caso al mondo dove i libri si trovano in una macelleria. Ha iniziato a lavorare come muratore e lustrascarpe all'età di 7 anni. A 12, nel 1973, si è trasferito a Brasilia ed è diventato garzone di macelleria. Nel 94 ha comprato la Loja, il negozio dove lavorava nel quartiere Asa Norte di Brasilia, e l'ha trasformato nella Açougue Cultural T-Bone, che potremmo tradurre come macelleria culturale della costata. La prima e unica del mondo, ci tiene a dire, dove libri e bistecche, carta e carne, inchiostro e sangue, si confondono. un'operazione per combattere l'analfabetismo di ritorno e anche quello di andata, l'ignoranza e il fatalismo dovuti ai problemi economici, alla mancanza di stimoli, alla durezza della vita. Luisa Morim indossa un camice bianco e porta un guanto di maglia di metallo sulla mano sinistra per non ferirsi mentre taglia la carne. Solo gli occhiali da vista e una certa aria compassata rivelano la passione per i libri. Luis viene da Salvador de Bahia, nord-est. Al seguito della madre, dopo il divorzio, si è trasferito nella capitale brasiliana quando erano passati solo 13 anni dall'inaugurazione della città disegnata da Oscar Niemeyer. Come tanti altri immigrati dalle zone povere del Brasile, sua madre è arrivata sull'altipiano al centro dello stato di Goiás nella speranza di raccogliere qualche briciola grazie alla vicinanza col potere e al denaro rappresentati dai palazzi della politica. Nella città che è l'emblema della pianificazione urbanistica, costruita da zero nel nulla per diventare il centro di un immenso stato federale, la macelleria biblioteca di Amorim è come uno strano frutto carnoso caduto lontano dall'albero. Per regolarizzarla, il Parlamento brasiliano ha dovuto fare una legge apposta, approvata nel 2003. Prima c'erano stati problemi con le normative igieniche, perché tenere libri dentro a una macelleria, in mezzo ai quarti di bue, non era previsto da nessun regolamento. All'inizio la gente ironizzava sulla mania bibliofila di un assugheiro baiano di umili origini e gli ufficiali sanitari ci andavano giù pesante. L'accumulo di volumi è arrivato a 10.000 titoli, ma in seguito si è passati a circa 500, con prestiti di 50-70 libri al giorno. Un progetto della T-Bone, la Parada Cultural, ha appena ricevuto il sostegno dell'UNESCO e per la macelleria di Amorim sono passate 150.000 persone e 500 artisti. Anche Petrobras, la compagnia petrolifera brasiliana, ha dato una mano. La Parada Cultural è un prestito di libri alle fermate degli autobus nella zona nord di Brasilia. I volumi si trovano su scaffali di libreria nelle pensiline, destinati dunque agli strati più bassi della società, visto che qui tutti quelli che possono si muovono in auto. Ho letto il primo libro a 18 anni. Ho imparato a leggere a 16. Prima ero analfabeta, dice Luisa Morim. E il primo libro di che trattava? Filosofia. Non ci ha capito niente, ma poi ha iniziato a leggere una media di 10-15 libri al mese e proprio la filosofia è stata la miccia che ha acceso il fuoco. La macelleria, però, non è solo libri in prestito. Si fanno anche presentazioni, incontri, dibattiti e concerti. Qui l'Orchestra Sinfonica di Vienna ha suonato in una delle tappe della sua tournée sudamericana. I libri vanno e vengono in continuazione. Nelle fermate culturali, appeso allo scaffale, c'è un decalogo per il lettore. Prendi un libro per volta, restituiscilo in buono stato, non tenere troppo tempo un libro e anche, o forse prima di tutto, dona i libri che hai già letto. Nessun estremismo bibliofilo, dunque. Tra le piastrelle bianche, i banchi di metallo nudo, gli sgabelli per sedersi e mangiare il churrasco e la feijoada, si legge il bollettino della Parada Cultural, che riporta le iniziative della macelleria. Il bollettino di un mondo lontano da ebook, intolleranze alimentari, vegani e digitalizzati, ma a metà strada tra l'Amazzonia e Amazon. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Antonio Armano, Carte da macello, dal numero 44 del mensile Il. L'origine del fenomeno mafioso si perde nella notte dei tempi, ma è il 1861, l'anno dell'Unità d'Italia, quello che può essere considerato come il momento in cui la mafia diventa una vera organizzazione criminale, come scrive Antonella Colonna Vilasi nel suo libro Mafie. Pur piena di contraddizioni e di ombre, la mafia non era ancora una vera e propria organizzazione criminale. Si muoveva innegabilmente ai confini della legge, elevandosi a sostituto dell'autorità statale in molte aree, ma non era ancora diventata quella struttura di potere criminale che, saldando interessi economici e di potere, si sarebbe avviata a rivestire un ruolo non secondario perfino nello sviluppo di gran parte del Mezzogiorno d'Italia.